tutto e brillo. Forse lei non mi stava ascoltando. Gentile pubblico, ascoltatori, telespettatori, teledipendenti, vi avvisarvi che siamo giunti. Beh, il finale. Forse ci stiamo avviando verso costruzioni pressoché febbrili, presso i chi del sé, dissetanti e dissestanti stili, a sé stanti ma in sé distanti da fanti e cavalieri di mondi di plastica, inquietano il regime con la drastica precaria in certa assenza di regine, ed è così che va, masticano aria ricoperta, all'incoscienza incline, mi chiedo se è la mente che si esprime o il discorso che reprime, ho supposto che il canile fosse una follia, infatti sono in psichiatria, già, se infatti dan contatti coi contanti miei misfatti inconsistenti volano via dalla regia.